È nella sedia girevole. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Una volta in città cercai per un po' di registrare le quotazioni di una quantità infinita di titoli, finché mi addormentai nella sedia girevole. Poco prima di mezzogiorno fui svegliato dal telefono e sobbalzai con la fronte imperlata di sudore. Era Jordan Baker. Mi chiamava spesso a quell'ora perché l'incertezza dei suoi spostamenti tra alberghi, circoli e case private rendeva un'impresa rintracciarla in altro modo. Di solito la sua voce mi giungeva dal filo con la freschezza umida di una piota scagliata da un campo da golf fino alla finestra del mio ufficio, ma quella mattina sembrava aspra e asciutta. «Non sto più da Daisy», disse. «Mi trovo a Hampstead e conto di andare a Southampton questo pomeriggio». Probabilmente se n'era andata dalla casa di Daisy per puro tatto, ma il gesto mi contrariò e quel che lei disse subito dopo mi irrigidì. «Non sei stato molto carino con me ieri notte». Che importanza poteva avere a quel punto? Ci fu un momento di silenzio, poi... «Comunque voglio vederti. Anch'io voglio vederti. Supponiamo che non vada a Southampton e faccia un salto in città questo pomeriggio». «No, credo che questo pomeriggio sia da escludere». «Molto bene». «Questo pomeriggio è impossibile. Diverse... Proseguimmo a quella maniera per un po', e poi di colpo ci ritrovammo a non parlare più. Non so chi abbia attaccato il ricevitore con un clic deciso, ma so che non mi importò. Quel giorno non me la sentivo proprio di conversare con lei a un tavolino. Fosse stata anche l'ultima occasione al mondo per parlarle. Qualche minuto dopo telefonai a casa di Gatsby, ma la linea era occupata. Provai 4 volte. Alla fine un'operatrice esasperata mi disse che l'utente aveva in corso una chiamata interurbana da Detroit. Tirai fuori l'orario ferroviario e disegnai un piccolo cerchio attorno al treno delle 3:50. Quindi mi abbandonai nella sedia e cercai di pensare. Era mezzogiorno. Quel mattino, non appena avevo visto sfilare i mucchi di cenere, mi ero spostato di proposito sul lato opposto della carrozza. Immaginavo che una folla di curiosi avrebbe stazionato da quelle parti tutto il giorno, con ragazzini intenti a scovare le macchie scure nella polvere e qualche chiacchierone che raccontava l'accaduto innumerevoli volte finché... L'incidente non avrebbe perso realtà ai suoi stessi occhi e non gli sarebbe stato più possibile raccontarlo ancora, consegnando così la tragica fine di Myrtle Wilson all'oblio. Ora voglio fare un piccolo passo indietro per raccontare quel che successe nella rimessa dopo che ce ne andammo la sera prima. Sorse qualche difficoltà nel rintracciare la sorella, Catherine. Doveva aver violato la sua astensione dal bere quella sera, perché quando arrivò era istupidita dall'alcol e incapace di comprendere che l'ambulanza era già partita per Flushing. Quando riuscirono a farglielo capire, lei svenne, come fosse quella la parte intollerabile della faccenda. Una persona gentile o curiosa la caricò nella propria auto e la portò nel posto in cui si trovava il cadavere della sorella. La gente seguitò ad accalcarsi davanti alla rimessa ben oltre la mezzanotte, mentre all'interno George Wilson si dondolava avanti e indietro sul divano. Per un po' la porta dell'ufficio restò aperta e chiunque entrasse nel garage non poteva fare a meno di buttarci un occhio. Alla fine qualcuno disse che era una vergogna e chiuse la porta. Erano con lui Michaelis e molti altri tizi, da prima 4 o 5, quindi 2 o 3. Più tardi ancora Michaelis dovette chiedere all'ultimo estraneo rimasto di trattenersi un altro quarto d'ora affinché lui potesse tornare a casa e preparare del caffè. Dopodiché restò da solo con Wilson fino all'alba. Intorno alle 3 la natura del mormorio incoerente di Wilson mutò. Si calmò e quindi cominciò a parlare all'autodagital. Annunciò che sapeva come rintracciare il proprietario e poi si lasciò sfuggire che un paio di mesi prima sua moglie era tornata dalla città con il viso contuso e il naso gonfio. Ma non appena si udì raccontare questo episodio ebbe un sussulto e riprese a gridare «Oh mio Dio!» con voce lamentosa. Michaelis fece un maldestro tentativo di distrarlo. «Da quanto eravate sposati, George? Calmati un attimo, rispondimi. Da quanto tempo eravate sposati?» 12 anni. Avete avuto bambini? George, calmati, ti ho fatto una domanda. Avete avuto bambini? I coleotteri picchiavano senza posa la loro corazza scura contro la luce smorta e ogni qualvolta Michaelis udiva una macchina sfrecciare lungo la strada gli sembrava di udire la stessa auto che poche ore prima non si era fermata. Non gli piaceva andare nella rimessa perché il banco da lavoro era ancora macchiato nei punti in cui era stato disteso il corpo. Così si aggirava inquieto per l'ufficio. Arrivò a conoscerne ogni dettaglio prima del mattino. e ogni tanto si sedeva accanto a Wilson cercando di calmarlo. Frequentavi per caso una chiesa, George? Magari, anche se è un bel pezzo che non ci vai, potrei chiamare e chiedere a un prete di fare un salto perché ti parli un po'. Che dici? Non frequento nessuna chiesa. Dovresti, invece, George, proprio per evenienze come questa. Ma almeno una volta devi esserci andato in chiesa. Dove ti sei sposato? Ascolta, George, ascoltami. Non ti sei sposato in una chiesa. È stato un mucchio di tempo fa. Lo sforzo di rispondere spezzò il ritmo del suo dondolio. Per un attimo restò in silenzio. Quindi riapparve nei suoi occhi annebbiati quello sguardo tra il consapevole e l'intontito. «Guarda nel cassetto», disse indicando la scrivania. «Che cassetto?» «Quel cassetto, quello là». Michaelis aprì il cassetto più vicino alla sua mano. Non c'era nulla dentro, fuorché un piccolo e costoso guinzaglio per cani. Era di pelle guarnita d'argento. Aveva l'aria di essere nuovo. «Questo?» domandò sollevandolo. Wilson lo guardò con gli occhi sbarrati e annuì. L'ho trovato ieri pomeriggio. Ha cercato di spiegarmi, ma io ho capito che c'era sotto qualcosa di strano. Vuoi dire che l'ha comprato tua moglie? Lo teneva nel suo scrittoio, avvolto nella carta velina. Michaelis non ci trovava nulla di insolito e ipotizzò una dozzina di motivi per cui sua moglie poteva aver comprato il guinzaglio, ma verosimilmente Wilson aveva già udito alcune di quelle spiegazioni da Myrtle, perché tornò a sussurrare «Oh mio Dio!», inducendo il suo consolatore a tenerne per sé molte altre. «Dunque l'ha uccisa», disse Wilson. D'improvviso la bocca gli si spalancò. «Chi? So io come scoprirlo. Non esagerare, George», disse l'amico. «Questa disgrazia ti ha sconvolto e non sai quello che dici. Faresti meglio cercare di stare calmo fino a domani mattina». «L'ha uccisa. È stato un incidente, George». Wilson scosse il capo. I suoi occhi si assottigliarono e la bocca si allargò un poco, lasciando intravedere il fantasma di un... sprezzante. «Io lo so», disse in modo definitivo. «Sono uno di quelli che si fidano sempre e non penso mai male di nessuno, ma quando so una cosa, la so. È stato l'uomo dentro quell'auto. Lei è corsa fuori per parlargli e lui non ha voluto fermarsi». Anche Michaelis aveva assistito alla scena, ma non gli era passato per la testa di leggerci un significato speciale. Era convinto che la signora Wilson stesse scappando dal marito, piuttosto che cercare di fermare un'auto in particolare. «Ma come poteva? Lei...» «È un'acqua cheta», disse Wilson, come se ciò fosse una risposta alla domanda. Riprese a dondolare e Michaelis rimase in piedi a torcere il guinzaglio nella mano. «Magari hai qualche amico a cui potrei telefonare, George?» Era una speranza vana. Michaelis era pressoché certo che Wilson non avesse amici. La moglie lo aveva assorbito completamente. Si rallegrò un poco più tardi quando notò un cambiamento nella stanza, un chiarore azzurrino proveniente dalla finestra, e si rese conto che l'alba non era lontana. Intorno alle 5 l'azzurro fuori divenne abbastanza brillante da poter spegnere la luce. Gli occhi vitrei di Wilson si volsero ai cumuli di cenere dove piccole nuvole grigie assumevano forme fantastiche e saltellavano qua e là al debole vento dell'alba. «Le ho parlato», mormorò dopo un lungo silenzio. «Le ho detto che poteva fare fesso me, ma non poteva fare fesso Dio. L'ho portata alla finestra». Con uno sforzo si alzò e andò alla finestra che dava sul retro e ci schiacciò contro il viso. «E le ho detto: lo sa Dio cosa hai combinato. Dio sa ogni cosa che fai. Potrai fare fesso me, ma non lui». Michaelis era in piedi alle sue spalle e rimase sconvolto quando capì che Wilson stava fissando gli occhi del dottor T.J. Eckleburg, il cui volto cereo e gigantesco era da poco emerso col dissolversi della notte. «Dio vede ogni cosa», ripeté. «Quella è una pubblicità», gli assicurò Michaelis. Qualcosa lo indusse a distogliere l'attenzione dalla finestra per tornare a guardare la stanza, ma Wilson restò lì a lungo, il volto accostato al vetro, annuendo nella penombra. Alle 6 Michaelis era stremato e accolse con gratitudine il rumore di un'auto che si fermava davanti alla rimessa. Era uno dei veglianti della notte prima, che aveva promesso di tornare, e così Michaelis poté preparare una colazione per tre, che mangiarono tutti assieme. Wilson era più calmo adesso, e Michaelis andò a casa a dormire. Quando si svegliò 4 ore dopo e tornò di corsa al garage, Wilson era sparito. I suoi spostamenti, tutti a piedi, furono in seguito rintracciati fino a Port Roosevelt, e poi a Gats Hill, dove acquistò un panino che non mangiò e una tazza di caffè. Evidentemente camminava piano per la stanchezza, perché non raggiunse Gats Hill prima di mezzogiorno. Fin qui tutto fu ricostruito senza alcuna difficoltà. C'erano dei ragazzi che avevano visto un uomo comportarsi da matto, e automobilisti che erano stati fissati da quel tipo strano sul ciglio della strada. Dopodiché sparì dalla circolazione per 3 ore. La polizia, sulla base di quanto aveva detto a Michaelis, cioè che sapeva lui come scoprirlo, ipotizzò che avesse impiegato quel tempo chiedendo notizie su un'auto gialla in tutte le rimesse della zona. D'altro canto, però, nessuna delle persone che lavoravano in quei garage lo aveva mai visto farsi avanti, per cui disponeva forse di un modo più facile e sicuro per scoprire quel che voleva sapere. Alle 2:30 si trovava a West Egg, dove chiese a qualcuno come arrivare alla casa di Gatsby. Per quell'ora era dunque giunto a conoscenza del nome di Gatsby. Alle 2:00 Gatsby indossò il costume da bagno e lasciò detto al maggiordomo di avvisarlo se qualcuno avesse telefonato. Si fermò al garage per prendere un materassino di gomma che aveva deliziato i suoi ospiti nel corso dell'estate e lo gonfiò con l'aiuto dello chauffeur. Quindi ordinò che l'auto scoperta non venisse tirata fuori per nessun motivo, il che era strano, perché il parafango anteriore destro andava riparato. Gatsby mise il materassino in spalla e si avviò alla piscina. A un tratto si fermò per sistemare meglio il carico, e lo chauffeur gli domandò se aveva bisogno di aiuto, ma lui scosse il capo e in un attimo scomparve tra gli alberi che stavano ormai ingiallendo. Non giunse alcun messaggio telefonico, ma il maggiordomo rinunciò al suo pisolino e aspettò fino alle 4, quando ormai non c'era più nessuno cui recapitare un messaggio, se anche fosse arrivato. Mi sono fatto l'idea che nemmeno Gatsby credeva che sarebbe mai giunto, e forse neanche gli importava più. Se questo è vero, dovette provare la sensazione di aver perso il calore del suo vecchio mondo, di aver pagato un prezzo salato per una vita dedicata a un unico sogno. Immagino abbia sollevato lo sguardo e intravisto un cielo inconsueto, dietro foglie inquietanti, e che sia rabbrividito nello scoprire che cosa grottesca sia una rosa e quanto cruda possa risultare la luce del sole sopra l'erba a malapena spuntata. Un nuovo mondo, di consistenza fisica senza però essere reale, dove miseri fantasmi respiravano sogni come aria, vagando in balia del caso, come quella fantastica figura di cenere che strisciava verso di lui tra gli alberi amorfi. Lo chauffeur, uno dei protetti di Wolfsheim, udì gli spari e in seguito poté solo riferire che non gli aveva dato peso. Dalla stazione, salito in macchina, andai direttamente a casa di Gatsby, e la mia corsa ansiosa su per la scalinata d'ingresso fu la prima cosa ad allarmare qualcuno. Ma a quel punto tutto sapeva, se sto fermamente convinto. Senza quasi dirci nulla, 4 di noi, lo chauffeur, il maggiordomo, il giardiniere e io, ci precipitammo alla piscina. L'acqua era scossa da un movimento lieve, a stento percepibile, poiché il getto fresco che fuoriusciva da un'estremità della vasca premeva per dirigersi verso lo scarico sul bordo opposto, sotto la spinta di leggere increspature, a malapena ombre di onde. Il materassino carico si spostava a capriccio nella piscina. Un minimo accenno di vento che aveva corrugato appena la superficie fu sufficiente a disturbarne la rotta accidentale con il suo fardello accidentale. Al contatto con un ammasso di foglie roteò lentamente, tracciando come l'asta di un compasso un sottile cerchio rosso nell'acqua. Soltanto dopo che ci eravamo avviati con Gatsby alla casa, il giardiniere notò il corpo di Wilson poco più in là, nell'erba. E l'olocausto fu completo. Sweetheart, the night is growing old. Sweetheart, my love is still untold. A kiss that is never tasted forever and ever. Wasted. For all we know,